La Commissione europea ha confermato l'inadempienza del governo italiano sui passaggi fondamentali per attuare il protocollo di Kyoto. La Commissione europea non ha fatto altro che riscontrare la realtà dei fatti, cioè che innanzitutto il governo italiano non ha presentato un piano credibile di riduzioni delle emissioni. Questo è il dato più sconfortante, anzi addirittura il governo italiano autorizza in particolare il settore dell'energia elettrica ad aumentare le emissioni di gas serra. Noi stiamo andando nella direzione contraria. Il piano nazionale delle allocazioni presentato dal governo italiano in realtà vede praticamente regalare 50 milioni di tonnellate di CO2, di emissioni di CO2 in più rispetto ai 124 milioni che appunto si venivano emesse nel 1990, quindi invece di ridurle le abbiamo aumentate del 40%. In questi giorni si sta consumando un grande disastro ambientale vicino all'Alaska, nelle isole Alentine, dove un cargo sta rigettando in mare il suo carico di combustibili. Qual è la situazione attuale, soprattutto in relazione al fatto della conferenza COP10, sempre nel continente americano, anche se al suo sud, cioè in Argentina? Dalla nave che si è incagliata al largo delle Aleutine stanno fuoriuscendo le 1600 tonnellate di heavy fuel e gli 80.000 litri di gasolio che erano contenuti nello scafo. Un piccolo team di Greenpeace si è recato sul posto, abbiamo a disposizione un elicottero e, viste però le condizioni molto difficili dal punto di vista climatico, ci sono tempeste e temperature molto basse. Finora l'elicottero non è riuscito a mettersi in volo, speriamo che oggi, cioè quindi più tardi in serata, riusciamo ad avere un'idea precisa di quello che sta accadendo. Sicuramente è un possibile disastro, in quanto l'ambiente costiero è molto sensibile, in quanto la tipologia di idrocarburo che è fuoriuscito in mare è molto pesante, è un bunker C oppure bunker 6, è il residuo probabilmente più pesante del processo di raffinazione del petrolio e potrebbe provocare dei danni rilevanti alla fauna costiera e agli uccelli marini. Ci sono colonie di lontre e leoni marini in zona, quindi c'è il rischio che il danno ambientale sia considerevole. L'unica via secondo noi è quella di sterzare decisamente verso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, eolico e solare. È già dimostrato che entro il 2020 l'eolico da solo, l'energia del vento da solo, potrebbe garantire un 12% del totale del fabbisogno energetico a livello mondiale, e questo anche potrebbe garantire un fatturato di 80 milioni di miliardi di dollari all'anno, potrebbe creare oltre 2 milioni di posti di lavoro, ma ancora non ci siamo, grazie soprattutto chiaramente all'opposizione delle grandi compagnie petrolifere, in questo sponsorizzate dal governo degli Stati Uniti. Infatti gli Stati Uniti, che da una parte, da un punto di vista di politica internazionale, ricevono il premio come peggiori delegati al COP10, mentre da un punto di vista di politica interna, appunto in Alaska si sta consumando l'ennesima tragedia ambientale. Qual è la politica di pressione che Greenpeace intende effettuare nei confronti del governo americano? Il presidente Bush, durante il suo primo mandato, aveva posto tra le priorità la riapertura delle esplorazioni petrolifere in Alaska, proprio nella zona dove si sta verificando questo incidente. E noi siamo sicuri, anzi è già stato detto, che questo punto verrà ripresentato dalla seconda amministrazione Bush. In questo momento il Presidente ha anche una larga maggioranza all'interno del Congresso, quindi in questo momento Greenpeace, il primo impegno di Greenpeace è quello di evitare che vengano riaperte le attività di esplorazione petrolifera in Alaska, in una zona, tra parentesi, dichiarata parco nazionale. A livello generale, chiaramente Greenpeace si batte affinché l'amministrazione venga costretta a cambiare politica e quindi finalmente a ratificare il protocollo di Kyoto. Ricordiamo che gli Stati Uniti insieme all'Australia sono gli unici grandi paesi industrializzati che non hanno neanche ratificato il protocollo. Da sottolineare per esempio che nel campo dell'eolico l'Europa è all'avanguardia, in quanto i grandi produttori di turbine eoliche sono tutti europei. Questa interessante tecnologia permette quindi anche di esportare un modello produttivo europeo su scala mondiale, e questo dovrebbe anche essere all'attenzione dei nostri governanti.